Oh, mamma mia. E bada che non sia la stessa roba che ci propina quella droga. Perché cavolo l'ho fatta cuoca? Vuoi faccio io il cuoco, cavolo. Andrò a vedere quali sono le scorte. Tu continua a controllare la sratite. Ti ricordo che il monaco comunque è nell'essere sospettati. Tu non eri con loro a sconfiggere lo scorpione. Eh sì. Non ti preoccupare, lo ritroverò presto. E neanche Corinne, tra l'altro, è fuori dalla lista dei sospettati. Ok, tu che sei la vedetta, fammi... è sera. Ok. Dove sono partiti? Al mattino? Sì, mattino tardo. Tarda mattina. Insomma, sono passate 12-11 ore circa da quando sono partiti. Fammi una prova di perception. Vuole 21. Niente. Non puoi fare, eh? Scassavo. La rifaccio? Dai, devo rifare. Non vedi niente. Era difficile da vedere. Vabbè, non sembri notare niente di particolare. Lei fa la guardia, giusto? Ansia. Ansia, sì. Dopo un po' rifaccio un altro tiro, perché... passa mezz'oretta, quindi faccio un altro sguardo sulla città. Io guardo molto bene la stradita. Vero? Quale prova di raggiungere 5 alla città? Dado percentuale. No. Il mio dado preferito dado percentuale. Capito? Quello del caso. Lei per fare il mozzo sta segando la scopa perché è troppo bassa adesso. Tenera. Dai, faccio, dai, passata mezz'oretta. 1, 2, 3, 4, 5 siete. Ci sono anche Jung e Corinne. Ragazzi, però. Scusate, ero mezzo appisolata. Dov'è che eri tu così per sapere? Io ero nella mia stanza. Stavo facendo cucina, è vero. Mentre cucini per la cena, fammi una prova di perception. Tu, perché l'ha fatta lei, perché non mi sembra giusto non darti l'occasione. No, niente. 7 più 9. Sei l'artefice del tuo destino, eh. Tu che l'hai fallita. Vai, devo fare anch'io. Dai, è passata mezz'oretta e faccio un'altra prova, no? Perché io sto a vedetta. Non è passata mezz'oretta, sono passati minuti. Ora è passata mezz'oretta. Cioè, togliamo questo, ma che... No! Mi sa che qualcosa mi dice che ci vorrà la griglia. Così, dal fatto che il mastro sfoglia il bestiario con aria famelica. Mettila, prova a metterla lì. Scusa, sono volte da prima. Mettila sul divano. O sul divano. Se volete passare, sono qui, comunque. Ci sono anche le quattro. No, date io, sì. Provo, magari non apriamo, le prendiamo la prossima volta. Sì, forse meglio. Mezzanotte e mezza. Mezzanotte e mezza? Mezzanotte e mezza? Mezzanotte e mezza a giocare. Sì, perché hanno fatto tutte le sì. Vabbè, c'è un combattimento, no? No, magari non facciamo il combattimento, però spiegaci cosa succede. No, non è combattimento. Ho capito, ma è tardissimo, possiamo iniziare il combattimento. No, non vedi quanto è lungo. Ma è lungo. Sarà almeno un'ora. Voi avete orari? Sì. Meglio che... Vediamo che cosa appare e poi chiudiamo. Ok. Ma non ho fatto neanche i dati. Oggi non ho fatto neanche un dato. Vabbè. Abbiamo fatto bello, mi piace. Com'è bello? Sì, sì, no, sì, bellissimo, però ho appena così più di danni, fatemi usare, no? Ah. Dai, licia? Scusa? Dai, licia? Dai, licia! Qui non si perde tempo. Perché quando è? Oddio, fatti i giorni. Ti manca tanto. Non si chiede. Di brutto. Non si chiede la ciana. Ok, signora. Senti, diciamo... Non si chiede la ciana, signora. Del gelo attorno al tuo collo, ma riesci a spostarti... rapidamente ma prima che la cosa possa afferrarti e farti del male. Mi giro. Ti giri e non vedi nient'altro che un'ombra stare dinanzi a te. Tum, tum, tum, tum. Ok.